Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Treni più lunghi e spaziosi. Contributi per il trasporto merci ferroviario e per l'intermodalità. Creazione di un polo unico della logistica. Questi sono alcuni degli interventi inseriti nella cosiddetta cura del ferro, intrapresa dal governo per rilanciare il settore e renderlo più competitivo. Quando si parla di trasporto merci, però, si parla anche di trasporto su strada e via mare. Utilizzando diversi sistemi combinati fra loro, la cosiddetta intermodalità, si ottiene infatti maggiore efficienza e minore impatto sull'ambiente. I dati dei primi sei mesi del 2017 hanno registrato segnali positivi sia dei traffici intermodali sia di quelli su rotaia. Ma quali sono le prospettive di questo nuovo corso? Di questo si è parlato a Roma durante un convegno organizzato alla Camera dei Deputati nei giorni scorsi. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E quando in questo mondo dei trasporti si parla di cura del ferro, e non bisogna pensare a iniezioni ricostituenti o alla mitica carne di cavallo che ci facevano mangiare da ragazzini, lo ricorderete sicuramente. Stiamo infatti parlando invece del tentativo di trasferire delle quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia, in modo da decongestionare in qualche modo le arterie stradali, ma soprattutto sfruttare tutti i vantaggi della cosiddetta comodalità, ossia far viaggiare le merci ma anche le persone utilizzando più modalità di trasporto, in questo caso la strada e la ferrovia. Negli anni scorsi l'Italia era un po' il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda il trasporto merci ferroviario, ma da qualche tempo, grazie appunto a questa cura del ferro, qualcosa è cambiato. Se ne è parlato qualche giorno fa a Roma nell'ambito di un convegno organizzato da Fercargo, un convegno del quale parliamo in compagnia dei nostri ospiti, l'ingegner Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo, che è l'associazione che raggruppa le imprese ferroviarie private, e il professor Ennio Cascetta, già responsabile della struttura tecnica di missione e da pochi giorni invece presidente di RAM. Professor Cascetta, cominciamo proprio da questo cambiamento quasi epocale. Come dicevamo prima, fino a pochi anni fa l'Italia era un po' un fanalino di coda, invece stiamo recuperando terreno nel settore del trasporto ferroviario delle merci, grazie probabilmente anche a questa cura del ferro. Che cosa è successo in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni? Ma guardi, è successa una cosa abbastanza semplice, nel senso che ci siamo accorti che il trasporto italiano delle merci, ma più in generale il sistema logistico italiano, era un sistema logistico molto diverso da quello degli altri paesi europei con i quali ci confrontiamo e competiamo. Fra l'altro, il dato che mi sembra più significativo da questo punto di vista è quello del crollo del trasporto ferroviario delle merci, che si è osservato in Italia dal 2007-2008 fino al 2014, quindi un periodo durante il quale il trasporto delle merci si è ridotto di quasi il 50% nel nostro paese, quindi una cifra enorme, si è dimezzato. Ecco, invece in questi ultimi anni che cosa è successo dal 2014 in poi? In questi ultimi anni si è deciso di invertire questo trend e ci si è dato un obiettivo molto sfidante, cioè quello di aumentare esattamente del 50% in modo da riportarci su percentuali di uso della ferrovia paragonabili a quelli degli altri paesi europei. Per far questo si è operato su tre linee. La prima è una linea infrastrutturale, quindi sono messi in campo interventi di lungo periodo ma anche di brevissimo periodo per raccordare la rete ferroviaria italiana ai principali porti, interporti, al sistema dei valichi alpini, e per far camminare sulla rete ferroviaria italiana i treni merci europei, cioè treni lunghi 750 metri contro quelli di 400-450 che circolano oggi su gran parte della rete ferroviaria italiana, treni più pesanti, quindi fino a 2000 tonnellate, e treni con un'altezza tale da poter trasportare le cosiddette autostrade viaggianti, quindi anche gli autorimorchi, proprio per quella comodalità a cui facevamo riferimento prima. Perfetto. Quindi infrastrutture da una parte, norme, regole per semplificare al massimo il trasporto ferroviario e incentivi. Incentivi significa ferrobonus, quindi significa la possibilità di ridurre il costo del trasporto delle merci su ferrovia in modo da simulare, fino a che non sarà disponibile, questa rete ferroviaria con standard europei. Un impegno importante, un impegno che coinvolge sia le imprese pubbliche sia quelle private, rappresentate appunto da Fercargo, che anzi hanno fatto registrare proprio in questi ultimi anni delle crescite a due cifre, presidente Laguzzi. E noi siamo cresciuti nel 2015, che è il primo anno della cura, rispetto al 2014 del 6%, mentre nel 2016 rispetto al 2015 l'incremento delle imprese associate nostre è stato del 20%, un incremento clamoroso, perché nel ferroviario è difficile fare questi volumi e percentuali crescite così forti, mentre il settore complessivamente è aumentato del 6%, quindi un risultato, quello del 2016, molto importante. Molto importante perché poi il merito non è soltanto delle imprese ferroviarie private, ma di tutto il settore, perché il treno ha bisogno dell'autotrasporto, ha bisogno dei terminal, ha bisogno che la logistica creda nell'intermodalità, e quindi tutti gli attori che avevano condiviso con noi questo progetto, da Nita, Dasso Logistica, Coptrasporto, nei fatti poi hanno risposto concretamente, così come ha risposto l'Unione degli Interporti, i porti, insomma, è il sistema che ha veramente reagito. L'andamento del 2017 è sempre di crescita, non abbiamo i numeri precisi, però è comunque anche quest'anno un trend positivo. Un trend positivo che dovrebbe in qualche modo confermare anche la bontà di questa cura del ferro. Professor Cascetta, lei adesso si trova un po', non dico dall'altra parte del fronte, però si trova ad affrontare anche il tema delle autostrade del mare da presidente di RAM, che è la rete autostrade mediterranee. C'è una sfida che è particolarmente intrigante per il mondo sia produttivo sia dei trasporti italiani, che è la sfida della Via della Seta. Se ne sta parlando tantissimo in questi ultimi mesi, questo perché l'Italia potrebbe avere un ruolo importante dal punto di vista ferroviario, terrestre, ma anche da quello navale. Secondo lei l'Italia è pronta a questa sfida? Ma l'Italia sarà pronta, nel senso che la posizione geografica dei porti italiani è, come è noto a tutti, una posizione di potenziale vantaggio. Questa posizione di potenziale vantaggio non si è concretizzata fino ad oggi in un vantaggio effettivo, per una serie di ragioni che sono state quelle che hanno portato a una profonda riforma del sistema della portualità italiana. Quindi dopo oltre 20 anni le regole alla base del funzionamento dei porti italiani sono cambiate con questa riforma che il ministro Delrio ha portato a compimento l'anno scorso. Io penso che una cosa più importante da fare, come dicevo prima, sia quella di collegare con la rete ferroviaria i porti italiani. Una rete ferroviaria, come dicevamo, con standard europei, collegata al sistema dei valichi alpini. Da questo punto di vista, se mi consente, l'Italia sta facendo veramente un'operazione di rilevanza storica. Se noi pensiamo che le Alpi hanno da sempre rappresentato, no, la barriera al raccordo fra il nostro paese e il resto d'Europa, questa barriera è stata forata nella seconda metà dell'Ottocento con alcuni tunnel importanti come quello del Frejus, del Gottardo, del Brennero, ma da allora non si è fatto più nulla. In questo momento si stanno invece rifacendo tutti i tunnel ferroviari, quindi noi stiamo rifacendo dopo 150 anni il sistema dei collegamenti ferroviari dell'Italia con il centro dell'Europa, con il cuore dell'Europa. Ingegnere Laguzzi, Cascetta ha rilanciato, ribadito un concetto che abbiamo espresso fin dall'inizio della trasmissione, cioè quello dell'importanza della comodalità, anche quella ferrovia, appunto, porti, ma soprattutto ha rilanciato il tema infrastrutturale, infrastrutture che sono in evoluzione, che dovrebbero portare un ulteriore incremento della capacità di carico e di trasporto delle merci su ferrovia. Quindi suppongo che le aspettative per i prossimi anni siano abbastanza rose. Le aspettative sì, sono rose e impegnative. L'investimento più importante è in territorio svizzero, è fine 2019, inizio 2020, si attiverà una galleria ferroviaria che si chiama Galleria delle Ceneri, che completa il progetto Transalpe, di cui la parte principale è stata la nuova galleria del Gottardo. E quindi il corridoio nord-sud è un corridoio che dispiegherà completamente l'incremento di potenzialità nel giro di un triennio. Termina qui anche questo appuntamento con l'informazione legata ai trasporti e alla logistica. Noi salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, il professore Ennio Cascetta, neopresidente di RAM, l'ingegner Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo. L'appuntamento con Container ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.